Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore. Ve lo segnalo questa volta, come ho già fatto ieri, con particolare vigore, perché sono già ormai al quinto articolo di una lunga inchiesta che dedico. L'ho chiamato, diciamo così, il titolo di questa inchiesta: Prodi, il suo entourage e la loggia di San Marino. Perché richiamo San Marino? Perché da ieri ci stiamo occupando di un caso che possiamo definire molto molto strano, la storia della morte di un ragazzo 26enne, un giovane imprenditore di Avezzano, ma che operava a San Marino, Niki Aprile Gatti, morto il 24 giugno 2008 apparentemente per suicidio. Troppe cose non tornano nella sua morte, a partire, io direi, per quella che è la mia esperienza, dal fatto che detenesse un laccio laddove non è possibile per regolamento, laccio col quale si sarebbe impiccato. Abbiamo sentito ieri dalla mamma, la signora Ornella Gemini, che ha chiamato in causa anche delle possibili connessioni fra la sua morte e l'inchiesta che De Magistris stava facendo, poi gli fu avvocata, a San Marino, dove operava ed opera, secondo il PM, una loggia che ha fatto e ha fatto affari molto molto importanti in Italia e non solo, soprattutto con le imprese calabresi. Abbiamo avuto ieri con noi la mamma, Ornella Gemini, l'abbiamo nuovamente, buongiorno. Buongiorno. E io direi di partire da quella che è stata la sua denuncia, vale a dire lei non ha mai potuto parlare con Franco Corleone, che è il garante dei diritti dei detenuti della regione toscana. È così o sbaglio? È così. Ecco, sì. Prego. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità per proprio di parlare con il dottore. Ecco, cosa vorrebbe chiederlo, perché è qui che ci sta ascoltando. Allora, il dottore ha dichiarato ad un articolo sul giornale La Repubblica a firma di Laura Montanari alcune cose su quel giorno e ad esempio ha detto che ha dichiarato che lui aveva parlato con delle persone all'interno del carcere. Infatti io vorrei chiedere proprio a lui con chi ha parlato, perché è importante, in quanto le dichiarazioni del dottor Franco Corleone poi non coincidono con le carte che mi ha ridato il carcere. Ad esempio il dottor Franco Corleone dice di aver parlato e di aver saputo che Niki era andato ai passeggi e alle 11, rientrato dai passeggi, si era chiuso in bagno ed aveva fatto il tutto. Ora, dalle relazioni che ha tirato fuori il carcere, dove ci sono chiaramente le deposizioni dei compagni di cella, non risulta da nessuna parte che Niki fosse andato ai passeggi. Anche perché è stato trovato, mi pare, con un pigiama, vero? Era in pigiama, nelle foto io l'ho viste, mio figlio era in pigiama, ma la cosa più importante è un'altra. L'ora del decesso sono le ore 10, mentre il dottor Franco Corleone dice che alle 11 mio figlio rientrato si è chiuso in cella e ha fatto tutto quello che ha fatto. Quello che ha fatto... Dopodiché, ascolti, prego, ancora dichiara che i soccorsi sono stati rapidi. Certo, se l'avesse fatto alle 11, la chiamata al 118 che è avvenuta alle 11.20... sarebbe stata pressoché rapida, ma la morte di mio figlio è avvenuta alle 10, quindi la chiamata al 118 è stata fatta alle 11.20, un'ora e 20 dopo. Ecco, un'altra cosa che non torna, lei ha messo in evidenza, a questo punto direi che la situazione purtroppo è drammaticamente chiara, così come raccontata dalla mamma di Niki Aprile Gatti. A questo punto Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti della regione toscana, a lei la parola. Salve a tutti. A me spiace che la signora non si sia mai messa in contatto con me in questi mesi, perché la cosa sarebbe stata facilissima, ma io nella immediatezza di questo evento drammatico, perché per fortuna nel carcere di Solliciano i suicidi non sono frequenti o le morti traumatiche non sono frequenti, e immediatamente avendo conosciuto questa notizia l'ho resa pubblica e ho dato le notizie che mi erano state riferite. Ecco, dottor Corleone, mi scusi, però cerchiamo di andare sul punti di contestazione della signora Gemini. Innanzitutto l'orario di morte di questo ragazzo. Io lei capisce che io ho fatto una dichiarazione ai giornali, non solo a Repubblica di Firenze ma anche agli altri giornali di Firenze, sulla base delle notizie avute dal direttore del carcere, dal comandante della polizia penitenziaria. Che quindi avrebbero dichiarato che Nicabriele Gatti si è suicidato alle 11. Certo, ovviamente, quindi lei sa che quando succede un evento traumatico del genere poi la cella è chiusa, non è che non c'è altro modo né di, ovviamente non si può essere presenti nel momento dell'evento, ma anche successivamente la cella viene. Scusi un secondo, mi corregga se sbaglio, quello che lei ha saputo è dai colloqui che ha avuto con il comandante della polizia penitenziaria, con il direttore del carcere, quindi è da loro che lei ha saputo che Nicky Aprile Gatti è andato ai passeggi in pigiama, cosa che forse raramente, a quanto mi risulta e secondo la mia esperienza, fa qualche extracomunitario, ma diciamo che lo fa con difficoltà. A lei risulta che Nicky Aprile Gatti è andato ai passeggi in pigiama? No, che sia andato in pigiama, questo no. Io ho solo dichiarato, ho parlato col direttore di Sollicciane, sì, con gli agenti, erano affranti, da tempo non si registravano suicidi, mi hanno spiegato i soccorsi eccetera. Ieri mattina alle 11 Nicky Aprile Gatti aveva avuto la sua ora d'aria, era rientrato in cella, aveva scambiato qualche parola con un agente sul processo. Alle 11 uno dei suoi compagni di cella era andato in infermeria per prendere il metadone, un altro era rimasto lì. Lui si è chiuso nel bagno e si è impiccato. Ho capito. Mi tolga una curiosità, dottor Corleone. Ovviamente la mia dichiarazione ai giornali. Ho capito. Non ho questo. Le che ho avuto, ovviamente, certo, le informazioni le ho. Non c'era altro modo di acquisirle. Di acquisirle se non attraverso, ecco, il racconto del. Anche di dire che il carcere di Sollicciano non è un carcere di massima sicurezza. Com'è possibile che un ragazzo, un detenuto, avesse con sé un laccio delle scarpe, cosa che non c'è bisogno che glielo insegno io, lo saprà molto meglio di me, è assolutamente vietato. Assolutamente vietato, tutti i detenuti hanno scarpe da tennis, quindi. No, però mi scusi Corleone. Su questo mi dispiace, ma so di cosa sto parlando. I lacci delle scarpe non si possono avere in cella. Non è che uno ha le scarpe da tennis, ma senza lacci. Ma non è così. No, è così, guardi, glielo assicuro, glielo do per certo che è così. Passiamo alla signora Gemini. Che cosa ha da dire rispetto a quello che ha detto Corleone? Una cosa importante al dottore. Lui dichiara sempre che mio figlio due giorni prima aveva cambiato avvocato, altro cenno di cedimento psicologico. Questo è importantissimo, io lo voglio dire a tutta l'Italia. Dunque mio figlio ha ricevuto un telegramma. Durante 3 giorni di isolamento gliel'hanno dato questo telegramma, cosa che mi era stato assicurato dagli avvocati che non ci sarebbe stato dato, dove gli si diceva nel telegramma, io ce l'ho davanti, l'originale, che hanno fatto contrariamente alla mia volontà, devi nominare l'avvocato, gli hanno fatto cambiare avvocato. Quindi mio figlio non ha avuto un cenno di cedimento psicologico nel cambiare avvocato, gliel'hanno ordinato da fuori. E chi gliel'ha ordinato? Chi gliel'ha ordinato? Lei la sa questa cosa, hanno fatto un telegramma dalla casa di mio figlio a San Marino, dalla casa che aveva in affitto, il mittente Aprile Gattinichi San Marino, destinatario Aprile Gattinichi Sollicciano. E perché gliel'hanno dato questo telegramma se stava in isolamento? Ma altra cosa importante, quindi non era un cenno di cedimento di mio figlio, ma gliel'hanno obbligato a cambiare avvocato. Ecco, allora io la interrompo un secondo, signora Gemini, quindi abbiamo capito un'altra stranezza. Nicky Aprile Gatti che dalla sua casa di San Marino spedisce a se stesso nel carcere di Sollicciano un telegramma con il quale da solo si dice... Cambia avvocato, caro Nicky Aprile Gatti. È Nicky Aprile Gatti che lo dice a se stesso. Telegramma che giunge mentre lo stesso Nicky Aprile Gatti, destinatario e mittente, è in situazione, diciamo, di ristrettezza nel carcere, appunto, di Sollicciano. Corleone, questo è normale? Ma guardi, in una visione come quella che viene proposta, di normale non ci sarebbe nulla, perché lei si immagini se c'è un'organizzazione che è capace in un giorno di organizzare un omicidio in un carcere, io credo... Ma perché lei ci crede a questa possibilità? Di trovare il killer in un giorno mi pare che è una ipotesi che a questo punto è così allarmante, per cui io penso che la Procura della Repubblica di Firenze debba aprire un'indagine. D'altronde, assolutamente d'accordo con lei. Scusi, perché le cose sono così delicate che non possiamo cavarcela con poco. Lei pensi, è stato 2 giorni in isolamento, è stato trasportato in una sezione un giorno e in un giorno si è trovato il killer. Siamo di fronte non a una organizzazione criminale mafiosa, siamo in un'ipotesi di reati economici, diciamo, di truffa, quindi a me dà l'idea che insomma lei non crede all'ipotesi omicidio, e mi pare di capire che sposi legittimamente, per carità di Dio, più l'ipotesi del suicidio. Ma io la interrompo e ringrazio lei, ovviamente, la signora Gemini, perché il tempo a nostra disposizione è terminato, ma domani torniamo ancora su questo argomento proprio con l'avvocato di Ornella Gemini, che sta seguendo il caso del figlio suicida. Non lo sappiamo e speriamo che la Procura della Repubblica di Firenze lo accerti. Grazie ai nostri ospiti, grazie a regia Fabio Cantadori, in studio a Laura Fagini, a Francesco Di Bruno, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.